Bevi accendo questa con i frati fianco. Tutti quanti in chimica col volto bianco. Occhiali da sole pure sera tardi. La mia gente è in paranoia se la guardi. Tatuaggi in testa, braccia, gambe e mani. Croci, teschi, cuori e nomi cancellati. Portafogli vuoti e buste nelle scarpe. Vaffanculo è tutto molto interessante. Con i miei fratelli stiamo messi male. Davanti alle guardie fai la verticale. A evitare le sirene, frate, siamo atleti. Maratona, salto in lungo e 100 metri. Avevamo un sogno come tutti gli altri. Era non finire come tutti quanti. Per questo ci anestetizziamo spesso. Per non pensare a tutto quello che è successo. Splendo. Prima la giro e poi l'accendo. Tieni, fai questa. So che devo arrivare a 100. Tu parla pure, non ti sento. Mi riconosci perché splendo. Prima la giro e poi l'accendo. Vedo le palme, fumo denso, luci rosse, verdi e gialle. Che c'è meno ossigeno qua che su Marte. Ma non andiamo mai da nessun'altra parte. Pizza a domicilio, fai una margherita. Digli di non metterci tutta la vita. Nessuno dei miei fratelli qua è vegano. Però stanno tutti in fissa con il grano. I miei amici hanno sempre il cappuccio in testa. Frate, sembrano Skeletor. Mischiano un po' di tutto e fanno tardi tutte le sere, bro. Vendono al telefono come un call center della telecom. Ne fanno di tutti i colori, quei missioni o Benetton. Come faccio a resistere al richiamo del disagio? Perché a questo punto ormai gli voglio bene. Dopo tutto il tempo che abbiamo passato insieme. Splendo. Prima la giro e poi l'accendo. Tieni, fai questa. So che devo arrivare a 100. Tu parla pure, non ti sento. Mi riconosci perché splendo.